in primo piano. Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Oggi tra l'altro è un venerdì un po' speciale perché ci sarà la luna piena e ho scoperto, si chiama la luna blu perché è la seconda luna piena del mese, non succede quasi mai, era successo nel 2012, succederà di nuovo nel 2018, quindi per chi insomma stasera sarà magari dopo un lungo viaggio all'aria aperta ci sarà questa bellissima luna piena, mi sembrava così un buon augurio, un buon auspicio spero per la giornata e per il weekend. Ma cominciamo dalla Sole 24 Ore. Primo, perché vorrei segnalarvi con un pochino di anticipo che da lunedì, quindi mancano 3 giorni, parte questa iniziativa che c'era stata anche l'anno scorso, la guida operativa. Ogni giorno ci sarà un focus per gestire le scelte della famiglia. Si parte con la casa e il condominio, quindi lunedì 3 agosto la prima puntata e la vedremo poi insieme. Quindi 2 pagine ogni giorno con approfondimenti che poi magari si possono anche staccare e tenere su appunto scelte di economia familiare, possiamo dire così. Ma segnalo sulle 24 ore anche perché ha delle aperture molto economiche, mentre oggi i giornali sono molto concentrati sulla questione di cronaca Fiumicino e l'avete sentito nel GR, di nuovo aggiornamenti su Roma e poi la questione del PD che è stato, del governo che è stato mandato sotto, così si dice, quindi è stato sconfitto, è stato sconfitto sulla riforma della RAI. Ma vediamo quindi il titolo principale del Sole 24 Ore che riguarda i tassi dei titoli di Stato che sono in caduta, i rendimenti sotto il 2%. È un minimo storico per i bond a 2 anni e ieri appunto c'è stata quest'asta che comunque è andata bene perché sono stati raccolti 6 miliardi, quindi un po' il sintomo che appunto i buoni del tesoro continuano ad avere il loro mercato e però come sappiamo del resto questa non è una novità, i rendimenti sono molto più bassi che in passato. Lo spread, c'è anche un accenno allo spread e poi tutte le analisi le trovate a pagina 3 di queste questioni tutte tenute insieme un po' da questo titolo del Sole, lo spread è comunque sceso a 117 punti, lo spread, la famosa differenza tra i rendimenti dei nostri titoli di Stato e quelli diciamo i più preziosi, se vogliamo dire, quelli più considerati i migliori, che sono quelli tedeschi, i Bund tedeschi. L'altra notizia che trovate solo sul Sole 24 Ore ed è importante perché a volte noi parliamo delle leggi, però poi come si sviluppano queste leggi, come vengono applicate, poi è diverso da come erano state annunciate. Ecco, c'è stata la prima sentenza dopo l'entrata in vigore della riforma sul falso in bilancio e il titolo è La Cassazione frena. Infatti non scatta, secondo appunto questa prima sentenza della Cassazione, il reato se la violazione deriva solo da stime e valutazioni, e trovate le analisi poi all'interno del dorso di norme tribute a pagina 31. Un accenno anche all'altra questione che trovate su tutti i giornali, cioè sul fatto che nel negoziato greco, che sapete è ancora aperto perché la Grecia ha rimborsato una rata del suo debito, ha promesso una serie di riforme, il Parlamento greco ne ha anche già approvate alcune, però il negoziato continua e soprattutto la Grecia ha questo gigantesco debito sopra la testa che è quello che l'FMI vorrebbe tagliare avrebbe voluto veder tagliato, diciamo così, prima di continuare il negoziato. E ora la notizia è che siccome quasi tutti hanno risposto, Germania in testa, Schäuble, ministro delle finanze in testa, no, il debito non si taglia, il debito si onora, e quindi l'FMI è uscito dal negoziato. Ce lo racconta Vittorio Darold, che gli ascoltatori di Radio 24 ormai penso conoscono benissimo perché è stato per tanti giorni in Grecia raccontandoci la crisi nei suoi momenti caldi e ora appunto ci racconta questi ultimi sviluppi. Vi segnalo anche l'editoriale di Alberto Rioli, uno dei vice direttori del Sole 24 Ore, che tiene un po' insieme le questioni, le previsioni del Fondo Monetario Internazionale di cui abbiamo dato conto 2 giorni fa, con questa previsione molto fosca che diceva si tornerà ai livelli occupazionali pre-crisi solo tra 20 anni, e poi i dati che vedremo anche più tardi più in profondità resi noti dallo Svimez ieri, ma anche di questi sicuramente avete già sentito nei GR, che parlano di un sud del nostro paese ancora fortemente sottosviluppato e tanti hanno paragonato appunto lo hanno chiamato la nostra Grecia. E vediamo la prima pagina della Repubblica. Come vi dicevo, i giornali quotidiani, i principali quotidiani italiani oggi sono concentrati su questi temi prettamente così politici, quindi la Repubblica, governo battuto sulla RAI, colpo a Renzi dai ribelli PD, perché questo fatto che il governo è andato sotto è dovuto alla sinistra del PD, quella che da molti mesi contrasta il Premier che tra l'altro ha perso anche alcuni pezzi, come sapete se ne sono andati per esempio Civati e Fassino. Messina, due parlamentari. Sulla questione di Fiumicino c'è una fotonotizia con passeggeri che aspettano sotto un cartellone la vergogna di Fiumicino. Tra l'altro questa notizia che ci dà Carlo Bonini, al di là dell'incendio doloso di due giorni fa e del blackout di ieri, si fa il conto che negli ultimi due anni a Fiumicino ci sono stati 53 incendi. C'è appunto l'articolo di Carlo Bonini che, come tutti i giornali, si raccontano soprattutto i disagi dei passeggeri. Come sempre, forse basterebbe poco, se non altro un'informazione un po' continua in questi casi, invece di lasciare tutti in balia appunto di cartelloni che magari non vengono nemmeno aggiornati, e poi la maggior parte dei passeggeri, come avete sentito e come vedrete su tutti i giornali, è pieno di foto e di racconti in prima persona, sono stati costretti a bivaccare nella speranza che prima o poi qualcuno desse loro delle informazioni affidabili su quando si sarebbe potuti partire. Naturalmente la maggior parte delle persone erano in partenza per le vacanze, quindi doppia arrabbiatura perché si perde il tempo prezioso che già si immaginava dedicato alle vacanze. Il Messaggero giustamente titola a sua volta su quello che è successo a Fiumicino, e quindi odissea senza fine, con anche qui una foto di passeggeri sdraiati in attesa appunto di informazioni. Ma il titolo principale anche in questo caso dedicato alla riforma RAI e a quello che viene definito l'agguato nel PD, governo KO e poi l'ira di Renzi. C'è un accenno all'intervento di ieri, alla cosiddetta cerimonia del ventaglio, in cui il capo dello Stato saluta tradizionalmente la stampa prima delle vacanze. Sergio Mattarella ha fatto un discorso molto complesso, molto lungo, che tra l'altro l'Unità pubblica in parte, e qui il commento di Alessandro Campi: il Quirinale, il senso del limite. Forse la frase che viene più usata nei titoli è tra quelle dette da Mattarella, è: non esiste un uomo solo al comando, quindi né magari lui, per chi vorrebbe, per esempio per chi auspica o anche ha auspicato in passato con altri presidenti la Repubblica che venga usato di più, per esempio, il cosiddetto diritto di veto, ma probabilmente alcuni leggono anche in queste parole nessuno è solo al comando anche un monito al Presidente del Consiglio ad agire con maggiore concertazione. Anche questa non sarebbe un nuovo monito che viene mosso a Renzi. Anche La Stampa titola su Fiumicino: il giorno della rabbia, anche in questo caso una foto che dà l'idea della situazione di ieri in aeroporto. E poi vi segnalo l'editoriale di Mario Calabresi, il direttore della Stampa: cittadini, tornate protagonisti. Ve ne leggo una parte, poi continuo a pagina 25. Esistono momenti in cui all'improvviso anni di malfunzionamenti, illegalità, sciatterie e furbizie vengono a galla tutti insieme. È come se, raggiunto un punto critico, la comunità scoprisse che qualcosa che fino a quel momento aveva tollerato o preferito di non vedere. La spazzatura che abbruttisce Roma, i suoi servizi pubblici disastrati, le mazzette, le assunzioni clientelari e uno scarso spirito di servizio esistono da lungo tempo, non sono certo una degenerazione di questa stagione, così come l'arretratezza del meridione e la desertificazione del mercato del lavoro e di ogni investimento produttivo in gran parte del sud Italia sono notizie di giornata solo per chi ha tenuto la testa girata dall'altra parte. Ma oggi ad allarmare è la sensazione che si sia arrivati a un punto di non ritorno, in un momento in cui invece nel resto del paese si leggono segni di ripresa e si cercano vie d'uscita dalla crisi. Per anni ci siamo occupati e preoccupati per il nostro mezzogiorno, per la sua disoccupazione e per le mafie che distruggono qualunque possibilità di crescita. Oggi se ne parla poco perché le mafie sono ovunque e perché gli occhi sono tutti puntati su Roma, come se l'allarme e il contagio fossero ormai saliti e se ciò che sta a sud della capitale fosse ormai perduto. Il Libero ha questo titolo che ha bisogno di una piccola spiegazione. Comunque perfino il Papa licenzia Marino, perché c'è stato ieri una dura critica anche da parte del Vaticano, che appunto ha detto: Roma soffoca, è diventato un caso politico. Dietro ci sono probabilmente anche le preoccupazioni per i lavori del Giubileo, che è un piccolo Giubileo rispetto a quello del 2000, ma che ha comunque bisogno di lavori che erano stati annunciati ma che non sono ancora iniziati. Commento è di Maurizio Belpietro, e poi trovate in prima pagina anche naturalmente la notizia della riforma della RAI: la minoranza PD fa cadere il governo sul canone RAI, e il titolo però scelto è: arriva Verdini, Renzi va sotto al Senato. Il senso del titolo è naturalmente che la fuoriuscita di Verdini con il suo piccolo gruppo chiamato ALA da Forza Italia era stato subito battezzato da molti come una stampella per il governo Renzi, che aveva perso, come abbiamo detto prima, anche già alcuni parlamentari parlamentari del suo stesso partito, in realtà questa prima prova dimostrerebbe che con Verdini, anzi, non c'è stata questa stampella. Anche il giornale titola su questa battuta d'arresto ieri del governo: il piano B di Renzi si vota, Verdini non basta, al Senato i dissidenti di PD dimostrano che il premier non ha i numeri, e c'è anche un accenno, forse lo ricorderete, ieri ho segnalato l'intervento di Enrico Letta sul Fatto Quotidiano, il titolo dell'intervento era: non ci meritiamo questa House of Cards, sapete, la serie che va in onda su Sky Atlantic, mi sembra, protagonista Kevin Spacey, che nella prima serie era soltanto il capo dei House Whip, cioè possiamo tradurre un po' così semplificando, era il capo dei deputati democratici al Congresso, poi è diventato vicepresidente, nella terza serie è presidente, ma è sostanzialmente una serie politica sugli intrighi del potere. E quindi l'articolo di Vittorio Macioce: la vera sinistra più spietata della fiction, il premier Enrico Letta, la Boschi, intrighi che ricalcano House of Cards. Quindi diciamo che Enrico Letta ha un po' servito questo assist a questo commentatore del giornale, che ripercorre un po' tutti quelli che nessuno potrà spiegarceli, perché se sono intrighi sono in parte segreti, ma comunque quelli che dall'esterno possono essere visti come gli intrighi appunto della sinistra. L'Avvenire e il Manifesto, come ieri, faccio notare questa cosa particolare, titolano entrambi su una grande questione sociale. Ieri era quella degli immigrati che sono bloccati a Calais, quindi che dalla Francia cercano attraverso il tunnel di raggiungere la Gran Bretagna, con tutti i disagi che ci sono e le polemiche che ci sono in questi giorni, perché Cameron dall'altra parte della Manica, cioè dalla Gran Bretagna, è stato molto duro, ha anche ipotizzato proprio di chiudere il tunnel come per costruire un nuovo, purtroppo ennesimo, muro in Europa. Ecco, invece oggi sia Avvenire che Manifesto titolano su quei dati dello Svimez a cui accennava anche il Sole 24 Ore, e quindi l'Avvenire è un'Italia a metà, il Mezzogiorno sempre più povero e lontano. Il Fatto, quindi, secondo lo Svimez, il Sud rischia il sottosviluppo permanente. Il PIL, pensate, è il 53% di quello del Nord, quindi la metà, e l'intero paese arranca nell'Eurozona. Un'altra notizia dalla prima pagina dell'Avvenire è che i vescovi veneti hanno invitato i loro corregionali, ma forse tutti noi, all'accoglienza, e il virgolettato scelto da questo intervento dei vescovi veneti dell'Avvenire è: con i migranti non si faccia come Caino. E vi dicevo, il Manifesto ha la stessa apertura, con una foto diversa. La foto in realtà è della fontana di una fontana romana, ma il titolo: sottosviluppo permanente, il rapporto Svimez descrive mezza Italia nell'abisso, dove il Sud è a rischio di sottosviluppo permanente. Vedete proprio le stesse parole estrapolate dall'Avvenire: lavoro, una donna su cinque, una persona su tre è a rischio povertà, e l'occupazione è ai livelli del 77. Dall'Unità, questa volta devo dire, nei giorni scorsi sono stata un po' critica verso i titoli di prima pagina dell'Unità, oggi l'Unità titola proprio su quello che è successo ieri in Parlamento, e il titolo è: facciamoci del male, la minoranza PD sulla RAI vota con Grillo, Salvini e Berlusconi e manda sotto il governo. Anche qui il commento oggi, vi ricorderete forse, avevo citato il commento della vicepresidente del PD Serracchiani, che è anche governatore del Friuli Venezia Giulia, che aveva detto: abbiamo sbagliato negando l'arresto del senatore Azzollini, dovremmo chiedere scusa ai nostri elettori. E ieri invece ha detto, commentando questo voto: loro pensano alla corrente, loro i Dem, la minoranza Dem, noi al paese. E anche Orfini, che tra l'altro è commissario del PD romano: così si smonta il PD. Come vi dicevo, è parte in prima pagina e poi prosegue a pagina 14 la trascrizione dell'intervento fatto ieri da Sergio Mattarella, intitolato Riforme irrinunciabili. Ci lasciamo un attimo e ci ritroviamo subito dopo con gli altri titoli dei giornali. In primo piano. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e forse vi sarete chiesti come mai non avevo nominato il Corriere della Sera, era rimasto sotto la pila, però eccola qua la prima pagina del Corriere della Sera. Ma come vi dicevo, sono gli stessi temi oggi, quelli dei quotidiani generalisti, un po' davvero con pesi diversi. E in questo caso foto notizie anche qui di Fiumicino, il bivacco dei turisti, la notizia del governo battuto sul canone della RAI, e poi, e questo il Corriere della Sera lo condivide con il Fatto Quotidiano, un titolo in prima pagina dedicato, lo avete sentito nel GR, alla realizzazione relazione di Alessandro Pansa, il capo della polizia, davanti al Copasir, che ha parlato di questa vicenda della società a cui anche la polizia si era affidata, questa hacking team di Milano, che poi i cui computer sono stati violati, e quindi ecco le indagini bruciate dai pirati della rete. Il Fatto Quotidiano proprio ha il titolo principale su questo: i segreti di hacking team nelle mani dei terroristi, con un approfondimento un po' pessimistico, diciamo, perché in realtà Alessandro Pansa sì, ha spiegato che il danno c'è stato, però ha anche spiegato come si sta cercando di riparare a questo danno. Vi segnalo il Secolo XIX oggi, perché a parte che spesso non abbiamo tempo di segnalarlo, però poi, come molti quotidiani locali, ha anche tante notizie locali interessanti, magari nelle prossime, a maggior ragione nella prossima settimana, quando forse dalla Liguria appunto giungono, molti di voi saranno lì in ferie e magari ci saranno così notizie un po' curiose e leggere, le segnaleremo. Ma oggi lo segnalo perché lo avete sentito, insomma, questo disastro Samp e con la missione del neo allenatore Zenga, colpa mia. Quindi il Secolo XIX mette in prima pagina questo 0-4 registrato ieri, e poi la vergogna di Fiumicino, e naturalmente la Gazzetta dello Sport, che invece però segnala, naturalmente anche qui con questa parola, disastro Samp 0-4, Zenga contestato. In realtà la partita che ha visto protagonista il Milan Miha male, naturalmente un gioco di parole per anche qui il neo allenatore Mihajlovic, sono i convincenti, il lavoro di Mihajlovic dà già i suoi frutti. Ma veniamo alle pagine interne, torniamo sul Sole 24 Ore, perché c'è a pagina 3 un approfondimento sul titolo di prima pagina, c'è questa asta dei buoni del tesoro con i rendimenti in picchiata, e uno specchietto che fa vedere come siano andati negli ultimi mesi e negli ultimi anni. E poi questa stagione di trimestrali, ma anche di semestrali, perché in questi giorni vengono pubblicati i dati del secondo trimestre, e poi quindi aggregati insieme a quelli del primo si ha già un'idea di come le aziende sono andate per sei mesi, e spesso si fanno anche le previsioni per come gli amministratori delegati vedono l'andamento da qui alla fine dell'anno. E allora tre approfondimenti, perché sulla base appunto di tutte le trimestrali / semestrali che stanno uscendo in questi giorni, Vito Lops ci spiega come Piazza Affari macini profitti, più 11% medio per le big del listino. E tra l'altro c'è un differenziale ormai tra gli utili delle aziende dell'Unione Europea e quelli degli Stati Uniti, che invece hanno registrato crescite più moderate o addirittura decrescite. E quindi l'analisi di Fabio Pavesi: l'euro debole e il sorpasso degli utili dell'Unione Europea sugli USA. Naturalmente appunto il fattore cambio ha un suo peso non indifferente in questo andamento delle aziende, soprattutto quelle che esportano molto e che in questo momento quindi se esportano verso gli Stati Uniti sono avvantaggiate. E c'è anche un'altra analisi di Walter Riolfi che spiega questo boom anche con il timore della crisi cinese dietro il sorpasso degli utili dell'Eurozona su quelli degli Stati Uniti. Se l'effetto cambio fa crescere le esportazioni, una crisi a Pechino e nei paesi emergenti farebbe precipitare le borse, perché sapete, nelle settimane scorse ci sono stati questi forti cali delle due borse cinesi. Il governo cinese è intervenuto pesantemente, cosa che forse in un sistema capitalistico più normale, diciamo, perché poi vivono questa grande contraddizione, no? Di una definizione di paese comunista che però di fatto ha ormai adottato un sistema capitalistico, e però in questo caso il governo è intervenuto fortemente con diverse misure per frenare questo calo delle borse, ma il rischio bolla molti analisti lo vedono ancora. Un approfondimento nella copertina di Imprese e Territori sui dati Svimez, si spiega anche come siano crollati non solo il PIL, abbiamo visto metà di quello del nord, ma anche gli investimenti. L'analisi di Stefano Manzocchi, Mezzogiorno e il rischio del non ritorno. A proposito invece di paesi che possono anche riprendersi, sapete che la Spagna fino a qualche anno fa era in crisi più o meno come la Grecia o come noi, ci sono state le riforme durissime di cui tra l'altro i governi dell'epoca hanno pagato un prezzo molto alto, però adesso il bilancio che ci fa Luca Veronese è 8 trimestri di corsa, tra aprile e giugno il PIL è aumentato dell'1%, un ritmo che il paese iberico non teneva dal 2007, e tornano i livelli di reddito che c'erano prima della crisi. Dal Corriere della Sera vi segnalo un'intervista al sottosegretario De Vincenti sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che a Dario Di Vico racconta questa ipotesi allo studio del governo, pronto ad aiutare le aziende che si quotano in borsa. Sapete che uno dei problemi che spesso vengono additati come una delle anomalie italiane è che sono poche le nostre aziende quotate. È vero che sono anche poche le nostre aziende molto grandi, con dimensioni superiori ai 200-300 milioni di euro di fatturato, però negli ultimi tempi è nato per esempio un segmento ad hoc della borsa, il segmento Star, e ci sarebbe appunto questa ipotesi di aiutare, perché la quotazione è molto onerosa, non solo dal punto di vista organizzativo interno, ma anche proprio per gli investimenti, per i costi che si devono sostenere. Corriere della Sera era richiamato anche in prima pagina questa analisi dei risultati della maturità 2015, quelli cioè che hanno con un focus su tutti i ragazzi che hanno preso 100 lode. Boom di voti eccellenti al sud, in Puglia sono 4 volte di più che in Veneto e in Piemonte, ma al nord sono più severi. E questo articolo di Valentina Santarpia che ci spiega appunto, e poi due interviste, una a uno studente di Salerno, qui siamo in tanti con la lode, ci teniamo a fare bella figura, e una a una studente di Milano, da noi la scuola è molto dura, io non avevo tempo per altro. Ieri abbiamo visto la lunghissima intervista di Paolo Bricco a Carlo Pesenti dopo l'acquisizione da parte di dopo l'OPA che il gruppo tedesco Heidelberg ha fatto su Italcementi, e ora invece oggi il Corriere della Sera con Giovanni Stringa intervista l'amministratore legato Scheifele, che è del gruppo appunto Heidelberg, che ha lanciato quest'OPA su Italcementi. Heidelberg e Italcementi si completano, abbiamo comprato per investire, l'operazione non è una semplice questione di costi, che è un po' anche quello il senso dell'intervista di ieri di Paolo Bricco, dove si parlava anche di tantissime altre cose, però appunto non era un monito a chi già parlava solo di un'operazione finanziaria. Non è un'operazione finanziaria, dicono entrambi gli amministratori delegati, è proprio un'alleanza strategica industriale. Vi segnalo dal Corriere della Sera, perché ieri abbiamo citato l'intervista di Ignazio Marino e anche quella domanda di Sergio Rizzo, dove gli si chiedeva un parere sulle critiche che Roma ha ricevuto da alcuni giornali. Marino diceva: in realtà è anche un attacco al nostro paese, a Roma, che si è candidata, sapete, per le Olimpiadi del 2024. Ecco, oggi c'è un voto importante, che ho trovato questa notizia solo sul Corriere della Sera. Il CONI infatti è al lavoro in Malesia, dove probabilmente verrà oggi o Pechino o Almaty in Kazakistan, che è l'ex capitale del Kazakistan, ma è vicino alle montagne, quindi è candidata per questo ai giochi invernali del 2022. Quindi oggi si saprà dove ci saranno appunto quei giochi nel 2022. Però insomma è già una tappa anche per tastare il terreno su questo Roma 2024. Allora il titolo dell'articolo: tra chance di vittoria e venti di scetticismo, la strada rimane in salita, ma c'è uno spiraglio per farcela. Questo è il parere di Claudio Colombo. E invece un altro giornalista: a chiedersi se vale la pena di crederci o fare come Boston, che appunto Boston ha rinunciato alla candidatura, a proposito di questa accusa che ha fatto Marino, che il New York Times attaccherebbe Roma per difendere Boston. Forse non sapeva che Boston ha già rinunciato a questa candidatura. Sulla questione del Sud vi segnalo sulla Repubblica un'intervista al neo governatore della Puglia Michele Emiliano, che dice: scateniamo l'inferno, questione meridionale ignorata da 20 anni. L'ultimo governo che si è occupato di Sud con successo è stato quello di Prodi nel 1996, dice Emiliano. Se Matteo Renzi intervenisse di più. E per quanto riguarda la questione romana, a Roma devono smettere di pensare che siamo solo una zavorra, malgrado tutto siamo in grado di fare cose straordinarie. Quindi non nega naturalmente i problemi Emiliano, ma cerca di vedere, lo dice lui stesso, il bicchiere mezzo pieno. Prima abbiamo parlato dell'articolo che trovate sul Sole 24 Ore di Vittorio D'Aroldo sull'FMI, trovate naturalmente nel negoziato con Atene, trovate la notizia anche su altri giornali. Sulla Repubblica per esempio ve lo segnalo perché c'è uno schemino interessante che chiarisce molto bene chi sono i detentori del debito greco in questo momento, cioè sia la BCE, il Fondo Monetario Italiano, il Fondo Monetario Internazionale, ma anche i governi e poi gli investitori istituzionali. C'è un'analisi anche delle posizioni che si stanno delineando di Schäuble, quindi della Germania, ma anche della Commissione europea con Juncker. Sulla questione del PD, Vi leggo la maca di Michele Serra. Michele Serra naturalmente è un giornalista di Repubblica, è un uomo, credo uno degli esponenti più riconosciuti del pensiero di sinistra, anche se è un giornalista, non ha mai fatto politica nel vero senso della parola, però appunto è proprio per questo che mi sembra giusto leggere il suo commento dall'interno. Un militante, possiamo dirlo, del PD che racconta che guarda a quella che lui stesso definisce la crisi del PD. La libertà di coscienza con la quale lo Stato Maggiore del PD ha deciso di affrontare, meglio, di non affrontare, il voto sull'arresto del senatore Azzollini ha un vantaggio e uno svantaggio. Il vantaggio è quello di sospendere ogni rendiconto interno tra giustizialisti e garantisti, evitando spargimenti di sangue. Lo svantaggio è rendere ancora più incerta e sfilacciata, se possibile, l'immagine di un partito politico che, al di là della figura del suo leader, sembra non avere fisionomia percepibile, un gigantesco comitato elettorale al quale non si deve mai domandare niente di compromettente ed ideologico, perché la sola ideologia che tiene assieme il PD sembra essere il supporto al suo giovane leader. Poiché la politica, per quanto mutata in senso post-ideologico, è fatta pur sempre di condivisioni e in una certa misura di appartenenza, il voto, anzi il non voto, su Azzollini è l'ennesimo mattone tolto dall'edificio politico che ogni partito vorrebbe e dovrebbe essere. La libertà di coscienza rende più lasco il vincolo politico con il partito, affida al singolo deputato o senatore l'onore e l'onere della scelta. In un certo qual senso scarica il partito dalla responsabilità di una decisione. Allo stesso modo, per contagio, aumenta di giorno in giorno la libertà di coscienza dell'elettore, che si sente sempre meno vincolato a un partito dall'identità sempre più composita e indeterminata. E su queste parole di Michele Serra vi lascio alle notizie sul traffico. No, non c'è, no, mi fa... niente, non c'è il traffico, mi fa segno Peter Vescapè in regia, e quando poi mi dirà che siamo pronti ridaremo la linea al traffico. Vi segnalo invece, lo trovate su tutti i giornali, la notizia di questo astronauta che avrà 60 anni nel 2017, quando andrà di nuovo in orbita, e quindi in orbita a 60 anni l'avventura di Astro Paolo. Insomma, abbiamo avuto Astro Samantha, adesso abbiamo Astro Paolo e abbiamo anche il traffico. In primo piano. Buongiorno, ancora buon venerdì da Giulia Crivelli. Eravamo nelle pagine interne dei giornali e, siccome, come avete forse sentito, più tardi a Spunti di Vista Irene si occuperà anche di questo allungamento della vita, sulla questione naturalmente del nostro Astro Paolo, l'astronauta italiano Paolo Nespoli, che oggi ha 58 anni, ma nel maggio del 2017, quando tornerà in orbita, ne avrà 60, ed è quasi un record, è un record per gli astronauti europei. C'è una piccola intervista, pagina 35 della Repubblica, a un medico, Vittorio Cotronei, che si è occupato di selezionare gli astronauti per l'ESA e per l'Agenzia Spaziale Italiana, quindi per l'Agenzia Spaziale Europea e per quella italiana, e ha diretto dei programmi di biomedicina, e quindi il titolo dell'intervista: la vita si è allungata, nello spazio l'età conta poco. Quindi chiede Silvia Bencivelli: l'età media degli astronauti si è alzata e ho un'impressione? E lui risponde: sì, e non deve stupirci, perché si è allungata la vita media e la nostra salute è migliorata molto. In fondo abbiamo avuto un Presidente della Repubblica di 90 anni. E poi si deve considerare che quella richiesta all'astronauta non è tanto una prestazione fisica, ma tecnica, scientifica, psicologica. E in questo l'esperienza conta tantissimo, più della giovane età. E a proposito di Presidente della Repubblica, dal Messaggero, vi segnalo che è forse il giornale che dà più spazio a questo intervento di ieri, anche se vi ho detto poi è pubblicato integralmente l'intervento dall'Unità, però qui c'è un racconto di questo intervento, e il titolo dell'intervento del Presidente della Repubblica ieri per questa cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare è: avanti con le riforme, non ho potere di veto. In Italia non esiste l'uomo solo al comando, il senso del limite vale in primo luogo per me. E poi vi segnalo sulla stessa pagina un aggiornamento, qui secondo me si sente il bisogno di aggiornare su questa questione, sulla Sicilia e anche su quello che sta succedendo, il rapporto tra il PD e il governatore Crocetta, che comunque è un esponente del PD. C'è stato ieri una notizia che secondo me varrebbe veramente la pena di segnalare con forse maggiore enfasi, è che per esempio una delle tante riforme annunciate, Alessandro Milan lo dice sempre, no? L'ennesima settimana decisiva per l'abolizione delle province, ecco, in Sicilia ieri con un voto dell'Assemblea regionale siciliana sono state abolite le province. Poi vedremo se a questa abolizione formale poi che cosa succederà, perché poi sapete che ci sono tantissimi problemi pratici, logistici quando si aboliscono delle province. Il PD rinvia la sfida con Crocetta, poi c'è un aggiornamento sull'inchiesta aperta dopo le intercettazioni pubblicate, presunte intercettazioni, perché in realtà non sono state pubblicate, sono stati pubblicati i resoconti di qualcuno che le avrebbe sentite, ma la vicenda ormai è nota, forse vi ha persino annoiato. Comunque c'è un aggiornamento su questo e il Messaggero ricorda che su queste intercettazioni il Consiglio Superiore della Magistratura ha aperto due inchieste, due fascicoli. Vi dicevo della notizia che era stata data ieri in prima pagina da Avvenire Manifesto, ma e poi dagli altri giornali, quella che si svolge intorno all'Eurotunnel, e il Messaggero titola appunto "Nuove barriere anti-migranti". Le annuncia Cameron, che parla di sciame di clandestini e scatenando una bufera contro di lui. Ci sono anche alcuni messaggi degli ascoltatori che hanno anche dato un'occhiata alle reazioni, ad alcune di queste reazioni che per esempio ci sono sui siti della stampa straniera. Qualche ascoltatore insomma mi critica quando parlo di queste questioni. Io capisco che l'immigrazione è, ho sentito ieri la bella trasmissione di Nessuno è lontano con l'intervento di un esperto su queste questioni. Io forse sono io stessa spaventata da questi grandi fenomeni migratori, o addirittura sciame di clandestini, come li ha definiti Cameron, però certamente di fatto forse dovremmo sempre chiederci, insomma, non è che noi abbiamo meriti particolari per essere da questa e non da quella parte, quindi forse mi rifaccio al monito dei vescovi veneti, per quanto difficile, per quanto ci spaventi, la strada giusta sarebbe quella dell'accoglienza, semplifico, però insomma io questo è, continuo a pensare. Ma non abbiamo ancora tanto tempo, quindi vado velocemente sulle pagine interne, gli approfondimenti. Per esempio sull'Unità oggi c'è ci sono due pagine all'interno interessanti, che possono servire credo anche a tanti genitori che magari non hanno ancora deciso dove mandare i figli. È un approfondimento su tutti i campi per volontari dell'ambiente, quelli gestiti per esempio dal WWF, dalla LIPUF, dalla Lega Ambiente, che così fa fare una vacanza appunto a difesa di specie protette. C'è l'elenco di tutte queste iniziative che si possono abbracciare durante l'estate. Sul Manifesto vi segnalo forse l'approfondimento maggiore su l'evoluzione della crisi greca ma all'interno, perché Tsipras deve continuare a negoziare, sia anche lui ha a che fare con parti del suo partito Siriza che gli sono ostili, deve continuare a negoziare su queste riforme che ha promesso. E allora il titolo del Manifesto: la sfida di Tsipras a Siriza, il premier greco cerca l'unità del partito al comitato centrale. E vi segnalo dal Manifesto una notizia che non ho visto altrove, che a proposito di negoziazioni, c'è un altro paese che è in grande difficoltà, di cui non parliamo per questi motivi ma per altri, ed è l'Ucraina. L'Ucraina infatti, secondo il Manifesto, Kiev in bancarotta, e quindi arrivano fondi freschi dal fondo. L'ultima tranche è arrivata il 25 luglio di 1,7 miliardi, però Kiev continua ad avere un debito che pensate è di 23 miliardi. E anche in questo caso Christine Lagarde, presidente del Fondo Monetario, dice ci vuole una ristrutturazione di questo debito. Dalle pagine interne dei giornali vi segnalo anche dal Macro, che è il supplemento del Messaggero culturale, un approfondimento sui 50 anni di lavoro di Laura Biagiotti, una delle stiliste appunto che ha una delle più lunghe attività del nostro paese. Lei ha 72 anni, ma iniziò a lavorare quando ne aveva 22, fondò il suo marchio, e quindi lo stile della cultura. E poi l'argomento che ha trattato ieri Irene nel suo Spunti di vista, cioè questa possibilità di questo desiderio, anche questa esigenza di staccare la spina da tutti l'elettronica che ci circonda. Oggi ci torna anche il Corriere, un approfondimento a pagina 33. Staccare le spine bastano 72 ore. Smettere di guardare lo smartphone, controllare Facebook o rispondere all'email. Dagli alberghi nemici del wifi fino alle applicazioni che ci possono aiutare a disconnetterci, a ritrovare il tempo perduto, cioè più o meno 2 ore e mezza al giorno, che appunto secondo alcuni calcoli perderemmo controllando tutti i nostri i modi in cui siamo connessi. E poi 2 giorni fa avevo segnalato questo articolo sui nonni e sul rapporto in particolare tra nonni e nipoti. È in realtà uno di una serie che sta pubblicando il Foglio. Oggi sullo stesso argomento torna Mario Sechi, Un giornalista, ex direttore del Tempo, ma adesso, che poi ha tentato anche l'avventura politica, ma è appunto soprattutto un giornalista, e ci racconta delle sue, dei suoi ricordi, in particolare dei suoi nonni. È una pagina intera, cannoni e mitragliatrici, soldati americani e tedeschi come colonna sonora, le sue notti a Torre Grande, con appunto questo un po', insomma, un racconto un po' nostalgico, però anche un invito. Perché è proprio questa serie che si chiama Estate con i nostri nonni, ci saranno altri articoli sullo stesso argomento pubblicati dal Foglio, un invito a rivalutare questo rapporto nonni-nipoti, che naturalmente può avere più tempo, tempi più rallentati, più giusti durante l'estate. Vi segnalo infine, prima di dare la parola a Irene, i tre settimanali in edicola oggi, 7 con il Corriere della Sera, in copertina c'è Maria Elena Boschi e una lunga intervista, Vi racconto l'Italia del 2018, il venerdì invece mette in copertina il regista Marco Bellocchio in vista anche della Mostra del Cinema di Venezia, I fantasmi di Bellocchio, con un'intervista di Paola Zanuttini. L'Espresso invece ha in copertina un'inchiesta sul cosiddetto oro sporco, arriva nei negozi d'Europa dalle miniere illegali del Sud America, e c'è appunto tutta questa inchiesta. E all'interno trovate anche a pagina 21 un piccolo aggiornamento sull'inchiesta che ha investito i due giornalisti dell'Espresso che hanno parlato delle intercettazioni su Crocetta. La parola a Irene. Giulia, grazie, t'ho seguito in questa lettura, in questa panoramica che ci ha portato in Italia, nel mondo. Uno dei punti importanti dell'economia italiana, anche se mai lo si interpreta così, una leva per la nostra competitività, è senza dubbio costituita dall'università, ma soprattutto dai cervelli, dalle persone, dalle risorse umane. Lo chiamano capitale umano, forse un accostamento un po' feroce, però è così. Come investire? Visto che è impossibile trattenere i cervelli in Italia, dire ai giovani non inseguite i vostri sogni, non formatevi all'estero, come attrarne allora sul nostro territorio? Noi ora andiamo al notiziario e poi ne discuteremo. 348... E questo è il nostro numero di SMS, 349-238-6666, ne discuteremo in spunti di vista.